Quindi l'obiettivo della giornata è proprio quello di riuscire a trasformare la consapevolezza individuale in una responsabilità politica e comune. E vogliamo andare con questo tema oltre la trappola del prezzo e dell'emergenza in modo da costruire una responsabilità comune. Useremo come traccia, come comune denominatore, il cambiamento climatico, proprio perché il cambiamento climatico è diventato un fattore di separazione tra chi produce e chi mangia. Invece vogliamo leggerlo proprio come una situazione di fragilità insostenibile che sì, ci separa, ma rispetto alla quale invece abbiamo tutti gli stessi problemi. E quindi sì, noi consumatori non siamo gli unici responsabili dei danni al pianeta, non dobbiamo fare i nostri acquisti soggiogati dal senso di colpa, dobbiamo invece trovare un modo di non sentirci più isolati e quindi di consumare in una maniera collettiva, facendo fronte insieme ai produttori a questa crisi ambientale. Perché comunque l'argomento è molto significativo. Certo, perché dobbiamo districarci tra i temi della povertà alimentare e dell'impoverimento anche dei territori, la riduzione di biodiversità, insomma, dobbiamo comunque trovare un modo di confrontarci tra partner per riuscire a trovare un indirizzo comune e a condividerlo non più come consumatori, ma come cittadini. E quindi insieme a Terra, che appunto è un'associazione ambientalista nazionale che si occupa proprio della trasformazione dei sistemi alimentari e della sostenibilità di queste, insieme a Campi Aperti, che è un'associazione di produttori e cittadini che sostiene l'agricoltura biologica, insieme a El Tamiso, che è un'altra cooperativa che dal 1980 opera in maniera biologica, come anche Campi Aperti ovviamente, e che fornisce i prodotti di realtà agricole di tutta Italia a consumatori che scelgono il bio, insieme a Camilla, che ha organizzato questo evento e che è l'emporio di comunità autogestito, il primo emporio di comunità autogestito in tutta Italia, in cui i soci sono proprietari, clienti e gestori, dove insieme scegliamo i prodotti delle filiere biologiche sostenibili che rispettano terra e lavoro. Quindi tutto questo per dire che vogliamo dare vita, dare forza ad una rete perché da soli non si fa nulla. E il fattore cambiamento climatico è proprio quell'elemento che ci ha diviso fino adesso, che vogliamo immaginare come una cosa lontana da noi, cioè delle volte vicina ma non troppo, e che non ci tocca, mentre magari il prezzo dei prodotti che si alza, sì, quello ci disturba, ci fa male, ci innervosisce. Ecco, in realtà no, sono due cose che vanno esattamente di pari passo e dobbiamo, solo collettivamente potremo riuscire a farlo, dobbiamo andare a capire qual è l'elemento di congiunzione e soprattutto trovare un modo attivo e politico di ribellarci. Quindi la spesa è un atto agricolo e per questo è un atto politico. Non c'è più il consumatore consapevole, ma c'è il cittadino che comunque diffonde la propria opinione e contribuisce a fare politica. Il cibo è politica, è il titolo di un libro che ho letto recentemente. E do qualche inquadramento dell'evento. Allora, si tiene alla Fattoria del Dono in via delle Scuole del Farneto numero 1 a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, domenica 19 aprile. Il programma è corposo, si comincia alle 10 con una colazione solidale, poi appunto inizia il dibattito di cui abbiamo parlato e poi alle 13 c'è il pranzo sociale che non conclude i lavori perché il pomeriggio ci sono un sacco di altre cose, introduzione di un video, la proiezione, un dialogo col regista, e appunto è un'iniziativa che si tiene appunto alla Fattoria del Dono in Via delle Scuole. Io ti ringrazio, Manuela Cappelli.